tempo di sport di Gigi Garanzini. Gioco comodo perché ho guardato l'ora, mi sembra che la linea sia arrivata. Si è arrivata un po' più tardi del solito. Buon pomeriggio in ogni caso. Da qualche minuto Vincenzino Montella è il nuovo allenatore della Roma. Montella ha 36 anni, ne compirà 37 il 18 giugno di quest'anno. La Roma ha ringraziato Ranieri, come usa in questi casi. Le dimissioni hanno di fatto interrotto un contratto che sarebbe comunque scaduto il 30 giugno 2011. La società la ringrazia, ma la ringrazia in maniera particolare Rosella Sensi, che ricorda che ricorda tutte le emozioni vissute in queste quasi due stagioni con Ranieri, e conclude dicendo: la decisione di lasciare la Roma a malincuore per dare una scossa, conclude per l'appunto la signora Sensi, non può che fare onore all'uomo, e posso immaginare quanto gli sia pesato a lui che è romano ed è tifoso dei nostri colori. Auguro all'uomo e all'allenatore un futuro radioso e tutti i successi professionali che merita. Questa è indubbiamente la notizia di giornata. L'altra, la principale, l'altra è che il designatore arbitrale Stefano Braschi ha ammesso gli errori che hanno favorito le vittorie di Inter e Milan in questo fine settimana. Il fuorigioco c'è, ha detto Braschi a proposito del gol interista di sabato sera. Il gol è da annullare perché la posizione di Ranocchia è influente, ma sono servite le riprese TV per rendersene conto. Quanto invece alla rete di Robinho, non so cosa possa essere successo, non capisco come sia potuto accadere. Questo è il commento di Stefano Braschi all'errore di Banti ieri a Livorno. Si è fatto un gran discutere, ovviamente, e se ne farà ancora per queste due decisioni che oltretutto così slittate, no? Così successe una dopo l'altra, insomma, è inevitabile che abbiano fatto pensare a una sorta di par condicio differita nel tempo, anche perché nell'arbitraggio di Banti di ieri ci sono stati anche altre valutazioni discutibili. Per esempio, scrive Gianni Mura su Repubblica: più grave ancora dell'errore sul gol di Robinho, a mio parere, la responsabilità di una gestione disciplinare a senso unico. Nulla da ridire sui cartellini gialli al Chievo, ma ce n'erano anche tre contro il Milan in ordine cronologico per Van Bommel, Merkel e Boateng, che Banti non ha estratto. Se poi aggiungiamo che Banti, come mi ha appena fatto notare con una mail arrivata 3 minuti fa da un signore che si chiama Ugo Giordano di Salerno, che Banti era l'arbitro di Milan-Palermo, in cui sinceramente il fischietto di Livorno ne combinò di ogni colore e a vantaggio della squadra di casa, indipendentemente poi dalla sparata di Zamparini, che quella sarebbe arrivata comunque anche in caso di arbitraggio equanime, come sappiamo, conoscendo il personaggio. Beh, insomma, qualche motivo di inquietudine può cominciare a esserci. I commenti a questo, insomma, a questa giornata che ha lasciato le cose più o meno invariate, se non per con l'eccezione di in particolare di Juventus e Roma, ma che comunque ha fatto registrare molti accadimenti, potrebbe cominciare, io credo, da un'intervista rilasciata sabato da Ranieri, in cui dice delle cose che evidentemente non si immaginava. Insomma, si capisce ben chiaro come, pur sapendo di attraversare un periodo difficile e di guidare una nave in un mare una nave non più sicurissima in un mare in tempesta, beh, insomma, che il giorno dopo finisse così la burrasca, proprio non se l'era immaginato. Sentiamo. Intanto non me ne vado, state bene tranquilli, non abbandono la nave. Lo spogliatoio è sano, è forte, è determinato. Dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo, e poi il corso delle cose le faremo cambiare noi. Io ho una squadra motivata, una squadra sana, perché non è che è diventata brocca in 15 giorni. Io sono convinto che questa squadra si tirerà fuori. Gli interessa domani a Genova vedere una squadra che lotta, che corre, che sputa sangue. Questo vuol vedere la gente. Poi accetta qualsiasi risultato quando ha visto la propria squadra che si è ammazzata sul campo. Il problema è che la squadra si è ammazzata sul campo di impegno per mi pare fino all'ottavo del secondo tempo, fino al gol del 3-0 di Totti, e poi nei 32 minuti successivi si è ammazzata con un karakiri che ha rari precedenti nella storia del calcio. Li ha elencati Franco Piantanida con le sue statistiche. Dunque, da 0-3 a 4-3 è la quarta volta che accade nella storia della Serie A. Successe due volte al Torino, che rimontò nel 42 da 0-3 a 5-3, nel 48 da 0-3 a 4-3, e poi ci fu nel 2001 un Bari che vinceva 3-0 e che fu rimontato 4-3 dal Perugia, ma quel Bari era già salvo e insomma quella partita diciamo che vabbè, fu una partita su cui qualche dubbio o qualche, non dico sospetto, ma qualche riserva era lecito avanzarla, non certamente su quella di ieri in cui il Genoa si è trasformato, ma si è soprattutto trasformato in negativo la Roma, perché sennò i presupposti non ci sarebbero mai stati. Primo intervallo di oggi, strade. Beh, come sempre accade in questo caso, in questi casi gli ascoltatori si scatenano, per cui Luca da Livorno scrive: Banti era milanista da piccolo. Il problema è se lo è da grande, Luca. Il fatto che potesse esserlo da piccolo non mi sembra gravissimo. Bisogna fare in maniera, non so, dato che è già accaduto due volte quest'anno, no? Di due arbitraggi di questa natura, mi sembra che siano, potrebbero essere più che sufficienti, e non so, magari tenerlo un po' più d'occhio in una terza occasione, oppure magari evitargliela. Un altro scrive che Banti è concittadino, non proprio compaesano, caro Ernesto, concittadino di Allegri, ma insomma, se, io non credo che questi siano i presupposti per dei ragionamenti o delle riflessioni. Credo che invece, se in una stessa stagione, a distanza di non molte partite, un arbitro commette errori gravi a vantaggio di una squadra, beh, insomma, chi designa potrebbe cominciare a chiedersi se perché, e in ogni caso a evitare magari che ci possa essere una terza volta. Perché due indizi sono due indizi, ma insomma, per evitare di arrivare alla terza, che sarebbe la prova. Dove continuiamo? Qua non c'è che l'imbarazzo della scelta, perché per esempio nelle statistiche il Milan ha vinto 2-1 sul campo del Chievo, come l'altro anno quando decise una doppietta di Nesta. Il Chievo non perdeva in casa dal 26 settembre, per dire quanto pesa una vittoria sul suo campo. Allora in quel caso fu la Lazio, mentre conferma il peso che Pato ha nell'attacco del Milan, perché ha una media complessiva di gol di un gol ogni 100 minuti, che insomma è una media più che rispettabile. Ha giocato, con tutti i suoi vari incidenti, 93 partite in campionato, e quello di ieri è il suo gol numero 46. In attesa dei vostri interventi in diretta, io sentirei intanto Zuniga, che è la pedina del Napoli, che ha tenuto aperta la lotta al vertice ieri sera dopo l'errore su rigore di Cavani. Zuniga: penso che questa è un'emozione abbastanza grande, giocare con questa tifosi è una cosa che non c'è parola, veramente. Sì, sappiamo che è un gol molto importante, non solo per me, sino per le squadre. Speriamo continuare così, no? Sappiamo questa partita che era una partita molto importante per noi. Questa è la partita che tutti i giocatori sognano giocare contro una grande squadra come il Milan. Allora aspettiamo andare là e fare una bella partita. Come al solito, scrive Paolo Ranieri, si è dimostrato gran signore dimettendosi, anche se non completamente responsabile della disfatta di ieri. Perché se quello è il parametro, quanti giocatori dovrebbero andarsene? Sì, a parte il fatto che da che calcio è calcio, sono sempre gli allenatori che o se ne vanno, anzi, che non che se ne vanno, che vengono cacciati. E quindi in quel senso Ranieri, sì, è stato davvero un grande signore. Diciamo che i due cambi di ieri, da Amarassi nel secondo tempo sul 3-0 e poi mi pare sul 3-1 3-2, sono da mancato patentino alla squadra di Coverciano. Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buon pomeriggio, signor Garanzini. Ascolti, io sono un tifoso juventino che ho visto tutte le partite quest'anno, buona parte anche dal vivo, purtroppo. Le volevo chiedere, fare un'osservazione tattica sulla Juventus e sentire il suo pensiero. Io credo che la rottura tattica della struttura di gioco della Juventus sia rotta, anche se sembra incredibile, in Milan-Juve, dove la Juve vinse quella partita giocando anche bene, ma se lei si ricorda, causa assenza di Krasic venne messo lateralmente Marchisio, che secondo me è un centrocampista centrale, non laterale. Da quella giornata lì Marchisio gioca sempre laterale di centrocampo, al punto che Pepe è stato messo in panchina. Secondo me la Juventus ha due laterali offensivi che sono Krasic e Pepe e devono giocare quei due lì. Ascolto il suo parere, grazie. No, no, non ho grandi pareri, Massimiliano, se non quello che una crisi di questo genere, insomma, non può nascere da una mossa, da una pedina o da una situazione particolare. È una crisi di sistema, direi, no? di sistema squadra, di sistema forse anche societario, insomma di sistema ambientale, perché ieri la Juve non ha giocato, insomma, non, al di là della disavventura iniziale di Buffon, che è ovvio che ti costringe ad una partita in salita. Bravissimo il Lecce nell'approfittare della superiorità numerica, però insomma ancora una volta la Juventus la superiorità numerica, l'inferiorità invece numerica l'ha troppo subita, non è riuscita a gestirla nemmeno per un momento, e allora questo secondo me è un segno di non eccelsa organizzazione al di là delle pedine. Fortunato ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo sottolineare, a parte il fatto di Bante, visto che ci è stato detto che ha abitato pure una partita a Milan, a Palermo, speriamo che la prossima volta non abiterà più la partita del Milan, e anche visto che diciamo quasi un tifoso del Milan non potrà aiutare altre squadre, non potrà aiutare il Milan quando abiterà altre squadre, cioè il disegnatore deve stare attento adesso. Sì, ma sempre nei finali di stagione si complicano le scelte dei designatori di volta in volta, insomma, perché è chiaro, no? Che durante l'anno gli errori producono poi situazioni di o ricusazione da parte di una società che dice io quell'arbitro lì scusate ma non vorrei proprio più averlo, oppure comunque il buon senso suggerisce di evitare possibili rischi di ricadute. Questo di Banti potrebbe essere indubbiamente, in questo finale di stagione potrebbe essere uno di quei casi. Sentirei Ugo dalla provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, io a proposito di designazioni, mi auguro che non venga designato Rizzoli per la partita di lunedì sera a Milan-Napoli, perché Rizzoli ha dimostrato all'andata, a parte l'espulsione di Pazienza, il giocatore del Napoli, ma ha dimostrato all'andata di arbitrare, di indirizzare la gara in un certo modo. Non dico che è stato un arbitraggio scandaloso, però sicuramente non è stato un arbitraggio casalingo quello di Rizzoli. Io ho il sospetto che sarà lui ad essere designato, purtroppo, per la gara di Milano. Perché nel dubbio è meglio cominciare a chiagnare una settimana prima, no? Nel dubbio. No, piangere no. però secondo me potrebbe essere un segnale preoccupante questa della definizione di Rizzoli, perché guarda caso non arbitra il Napoli proprio dalla partita Milan-Napoli. Ugo, ascolti, mettiamoci un po' di là, perché io prima ho parlato di inevitabile par condicio, ma l'hanno scritto in tanti e l'hanno detto in tanti, nel senso che ad errore a sabato sera a beneficio Inter era ragionevole pensare che potesse esserci un errore anche a beneficio Milan, che c'è stato, ma non può lamentarsi nemmeno di Gava il Napoli ieri sera comunque, eh? O no? O non ha notato? Ma no. Il rigore è stato detto anche dalla Moviola. Lasci stare la Moviola. Non ha avuto l'impressione che un minuto prima del rigore per il Napoli non ci fosse stato uno del Catania tamponato in area napoletana? No. Non l'ha colto. No. Ad essere sincero, ha capito. Succede. E succede di non vedere, no? Di non sapere. Io credo che la stessa. Ma io non sto dicendo che è partito un fax o che è partita una mail o che questo o che Braschi personalmente si è raccomandato con gli arbitri di Milan e Napoli di ieri, dice occhio perché con quello che è successo sabato. Non sto dicendo questo. Sto dicendo però che questo genere di condizionamenti esiste nel calcio ed è sempre esistito ed è il famoso tacon peso del buso, come dicono i veneziani, no? Perché tu credi di rimediare a una situazione, a un errore, oltretutto accaduto da un'altra parte, e poi finisce che il modo che hai di sistemarlo finisce per essere peggiore. Grazie comunque anche per il suo intervento. Qualche minuto l'abbiamo ancora. Francesco Napoli, buongiorno. Spero che non ti Bologna vittoria ad arbitrare il Napoli. Eccone un altro, grazie, lo speriamo tutti, Francesco, anzi a me personalmente non me ne può fregare di meno, ma nel suo caso perché? Sempre e nemmeno il Campi, spero che sia uno, un Valeri, un Pagliarento, un De Laurentiis eventualmente, cioè dobbiamo trovare qualcuno che sia al di sopra di ogni sospetto. Francesco, grazie. Stefano ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Mm. Senta, va bene, io ho fatto l'arbitro anche a livello abbastanza alto, mm-hmm, e mi sono sottratto poi da tutto perché non mi stavano più bene alcune cose. Io ritengo che gli arbitri mediocri, e ce ne sono tantissimi, tantissimi, io guardo le partite in maniera molto oggettiva, non sono tifoso del Chievo, però guardo in maniera molto oggettiva. L'errore di ieri era un'azione molto lenta, non era un'azione velocissima. L'arbitro era perfettamente in linea frontale con Rubinho, non ha voluto vederlo, non ha voluto vederlo, cioè inutile che giriamo attorno che ha sbagliato, no, ha voluto sbagliare. E perché l'intervista di Galliani contro un arbitro ha sicuramente un peso diverso dell'intervista di Campedelli. Questo non c'è dubbio. E quindi io, guardi, ritengo in maniera profonda, ha voluto sbagliare. Beh, insomma, non dovrebbe più arbitrare, ha capito, non dovrebbe più arbitrare. So. Stefano, abbia pazienza, lei ha detto di essere stato un arbitro ad alto livello. Un arbitro ad alto livello secondo me non ragiona così. Perché credo che il beneficio della buona fede se lo dia, se no vuol dire che ha sbagliato carriera lei anche, abbia pazienza. Cioè, mi segue? Guarda che gli errori si fanno, ma ci sono degli errori che sono inconcepibili. Io la partita, lei ha detto giusto una cosa, è stato a senso unico con i cartellini. Certo. È stato un approccio mentale pro Milan. Proprio mentale, io l'ho vista dai primi 5 minuti, mm-hmm, e quindi non posso credere nella buona fede. Tu, arbitro, hai avuto un approccio mentale in cui dovevi stoppare il Chievo. Ha praticamente stoppato i due centrali con le munizioni e da quel momento lì non ha più potuto marcare Ibra, perché sia Morero che Cesar ha munito entrambi, e quindi ha stoppato la difesa del Chievo, che fa del gioco forza, devo dire la verità, diciamo le sue cose. Però è l'approccio, se un arbitro ha un approccio del genere, io non posso credere alla buona fede. Non so, mi sarebbe piaciuto vedere l'approccio suo ai suoi tempi e nella carriera. Io credo che Banti ieri abbia sbagliato giornata. Ha commesso un errore molto grave, ha arbitrato in una maniera diciamo pure poco apprezzabile, insomma da lì alle accuse ad accuse del genere di un ex collega, io sinceramente faccio un po' fatica a colmare il gap che c'è tra questi due concetti. Forse è il caso che facciamo un intervallo, perché credo che i mercati oggi stanno andando male, ma andrà sempre meglio però di come sta andando qua. Intervallo. Torniamo con altre voci, altri interventi, altre statistiche. Beh, intanto il settimo gol di Hernanes in campionato. Ieri si è inventato un modo nuovo di segnare, no? Perché è una specie di volée, di volée tennistica aperta, secchissima, violenta, ma insomma comunque un colpo originale. La Lazio in ripresa perché ha fatto 11 punti su 15 nelle ultime 5 partite buone, mentre era scritto invece, mi fa sempre notare Franco Piantani, dallo 0-0 di Udinese-Brescia, per la buona ragione che l'Udinese segnava da 12 gare consecutive, il Brescia prendeva gol in trasferta da 11 e quindi non c'erano alternative, anche per via dell'assenza di Sanchez. Quando Sanchez non ha giocato, in altre due occasioni, esattamente come ieri, l'Udinese ha rimediato due pareggi e una sconfitta. Però l'Udinese, secondo me, ieri ha rimediato una vittoria morale invece, perché visto che stiamo parlando di brutti comportamenti e di errori arbitrali, di valutazione, quando ieri a un certo punto l'arbitro Bergonzi ha segnato un rigore all'Udinese per un presunto fallo di mano di Bega, poi il suo assistente gli ha corretto la decisione perché era perfettamente in asse, ha visto che Bega le mani le aveva raccolte sul volto, perché questo attaccante ha tirato molto forte da pochissimi metri, l'ha centrato in pieno tra la faccia e le braccia, ma a ripararsi il volto, ha cambiato la sua decisione, i giocatori del Brescia ovviamente si sono congratulati con lui, vabbè, e fin lì ci può stare perché avevano evitato un rigore contro, ma nessuno dell'Udinese ha fiatato e anzi un paio o tre hanno fatto all'arbitro un cenno d'intesa. Non succede spesso ed è giusto quindi segnalarlo. Dopodiché abbiamo sentito prima l'intervento dell'ex arbitro di Verona. Abbiamo sentito il tifoso napoletano che poi mi diceva dalla regia è andato avanti altri 10 minuti a urlare il microfono, a urlare la cornetta che non vuole Rizzoli, non voglio Rizzoli per Milan-Napoli di lunedì prossimo. E allora lo rassicura Denis Cancian, che scrive una mail da Conegliano e dice: Rizzoli lunedì prossimo ha un impegno perché sarà a Conegliano, provincia di Treviso, per una conferenza fissata da tempo e lui ha garantito la sua presenza, quindi non credo che farà Napoli-Milan. Ringrazi Denis Cancian, caro ascoltatore napoletano, che la rassicura da questo punto di vista. Piero ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefonavo per parlare della Juve, sono tifoso della Juve. Sarebbe stato troppo facile telefonare lunedì scorso, però a me piace andare controcorrente. Io penso che anche da parte dei giornalisti è stato troppo facile dare addosso a Marotta, che secondo me è una persona per bene, una persona che fa, cioè è sempre stato capace. Mi pare strano che nel giro di 2 mesi sia diventato un incapace. Ha fatto quello che la cassa gli ha permesso, forse avrà pagato qualche giocatore forse sopravvalutato, per l'amor di Dio. Però vedo che secondo me, la penso così, per fare una cassa bisogna cominciare dalle fondamenta, e la Juve bisogna ricordarsi da dove viene. È troppo facile guardare gli altri. Io vedo che le squadre che stanno avanti alla Juve hanno tutte una programmazione, vengono tutte da una programmazione seria, quindi secondo me ci vuole pazienza. È troppo facile sparare addosso e dire Marotta fino a un anno fa e poi diventavano incapaci. Questo no, bisogna sempre vedere, però Piero, bisogna sempre vedere in che ambito si opera, cioè si può operare in una buona, magari magnifica azienda artigianale e si può poi arrivare invece in una grande società, in una grande azienda, in una multinazionale e magari rischiare di mostrarsi inadeguato al compito. Io non sto dicendo che questo sia il caso di Marotta, dico però che è un po' improbabile paragonare le realtà di Sampdoria e di Juventus, e su questo credo che una riflessione potrebbe essere il caso di farla. Sentiamo Sorrentino, che ieri del Chievo mi era sembrato sinceramente e legittimamente il più arrabbiato. Se l'episodio del primo gol fosse stato annullato, a quest'ora parlavamo di un'altra partita, non ho dubbi, ma come l'ho visto io l'ha visto anche l'arbitro, perché era davanti a me. Per me dubbi non ce ne sono, io non ho bisogno né di rivederlo né di chiamare per sentire, non ho bisogno di niente, fallo di mano. Poi dopo, se le grandi hanno un regolamento e noi ne abbiamo un altro, questo io non lo so. Insomma, anche questo è un punto di vista, ed è un punto di vista abbastanza greve. In effetti, quando si parla di par condicio per Inter sabato sera e Milan di conseguenza ieri, si dimentica che quella par condicio, se fa il gioco di Inter e Milan, non lo fa certamente di Cagliari e Chievo. Ma Cagliari e Chievo, come è noto, sono, non dico carne da macello, ma insomma vengono certamente dopo, no? In ordine di importanza e di trattamento, soprattutto da parte di loro signori. Sentiamo Ballardini su questa strepitosa rimonta del Genoa, perché è vero che si è innanzitutto suicidata la Roma, ma insomma il Genoa comunque la sua parte l'ha fatta. Il Genoa stava giocando bene, tante occasioni da gol, un pubblico straordinario che ti spinge sempre a fare di più. Non dico che pensavo di recuperare 3 gol, ma ero certo che la partita avremmo continuato a farla. Palacio oggi ha fatto una grande partita, lui ha delle grandissime qualità e quindi sottolineerei, oltre alla prova della squadra, il pubblico che è straordinario. Io credo che in Italia non ci sia un pubblico così, che ti spinge anche sul 3-0 in casa propria. Questa è una cosa che gli allenatori del Genoa hanno sempre notato e che ogni volta che ci incontriamo in pubblico, per esempio qua alla radio, ma anche in privato, Osvaldo Bagnoli mi ricorda. Lui ha, pur avendo allenato anche in altre platee e con esiti ancora migliori, a Genoa furono esiti quasi trionfali, ma insomma pur avendo fatto anche di più, per esempio a Verona, ma lui sostiene ancora oggi che un calore come quello di Marassi rossoblù non l'ha mai sentito nella sua carriera. Giovanni ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno a Radio 24. Sarebbero tante le cose che vorrei chiedere, però mi limito a due o tre velocissime. Allora, una per tornare alla par condicio che parlava Moratti, proprio par condicio, però sempre contro Cagliari, perché guarda caso il Milan vinse Cagliari con un gol in fuorigioco e l'Inter ha vinto appunto sabato con un gol in fuorigioco e ci paga sempre il Cagliari. Vabbè, a parte questo, volevo parlare di tanto del cambio della natura della Roma. Mi dispiace tantissimo per Ranieri, perché comunque sì, avrà tutte le sue pecche, però ha pagato solamente lui. E come premio comunque questi giocatori che comunque ieri hanno latitato alla grande, ma non solo da ieri, gli danno Montella. Sinceramente non trovo un allenatore giusto, con tutto il bene che posso volere per Montella, te essendo tifoso romanista. Io forse avrei visto più una persona come Serse Cosmi, non so cosa mi dice lei. No, che io Serse Cosmi non l'avrei visto proprio, e invece vedo meglio Montella, guardi un po', nel senso che tanto... quando sei a 10-11 giornate dalla fine, il campionato è andato, la Coppa dei Campioni praticamente anche, e al massimo puoi pensare di salvare la Coppa Italia e di piazzarti in Europa League, a meno di azzeccare una rimonta straordinaria e di provare a inseguire la Lazio, cominciando ovviamente a vincere il recupero di Bologna, ma insomma, secondo me sono imprese a cui al momento è meglio non pensare. Io credo che sia meglio l'autogestione che non un allenatore di seconda o terza mano. Io un allenatore di prima mano l'avrei avuto, se mi avessero chiesto un'opinione avrei detto che con tanti giocatori di talento come quelli e con un ambiente così spaccato ci voleva uno che sapesse di tecnica, che sapesse di tattica e sapesse soprattutto di buon umore, che si chiama Giovanni Galeone. Ma dato che non mi hanno consultato, secondo me non hanno fatto così male, invece perché è chiaro che Vincenzo Montella significa Francesco Totti innanzitutto, significa De Rossi, significa Perrotta, significa Mexès, cioè significa significano i giocatori storici della Roma in una sorta di autogestione pilotata da Montella, e credo che in uno spogliatoio in cui Ranieri ha firmato troppe cambiali, perché la volta prima che Ranieri era stato a Genova, se non ricordo male, era stato lì che ha fatto entrare Totti a un minuto dalla fine. Queste sono cose, io il giorno dopo avevo parlato qua di cambiali, tutti dicevano no, ma cosa? E non solo Totti, perché di cambiali del genere Ranieri ne ha firmate tante quest'anno, come ne ha firmata qualcuno di troppo alla Juventus. Alla fine quelle cambiali si pagano molto prima di quanto non si creda. Filippo, provincia di Enna, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono un tifoso juventino, sì. Però semplicemente una piccola considerazione. Dall'anno scorso che oramai il campionato è quello, non credo che sia una Juventus costruita per lottare sicuramente per lo scudetto, ma dopo la partita con l'Inter, leggendo un articolo su qualche giornale, mi sa tanto che hanno festeggiato un po' troppo, visto il secondo tempo di ieri. Erano tutti sulle gambe, mentre il Lecce con due passaggi, massimo tre, erano davanti a Stolari, i nostri non arrivavano neanche lontanamente. Era solo una velocissima considerazione per dire che lottiamo semplicemente per arrivare forse un posto in Europa League, che poi neanche affrontiamo con la voglia di vincerla, di niente. Ho paura che questo oggi come oggi, Filippo, sia l'unico obiettivo realistico, perché la Lazio, cioè il quarto posto, dista 7 punti, e 7 punti la Juventus di ieri no, non ci può nemmeno pensare. Poi la Juventus delle due o tre precedenti giornate invece può pensarci, e come, però la Lazio nel frattempo ha 7 punti di vantaggio, che non sono così pochi, ed è davanti anche l'Udinese, e i punti sono gli stessi di Palermo e Roma, e quindi credo davvero che la situazione sia abbastanza complicata. Ultimo intervallo di oggi, le strade. Torniamo con il ripasso del 21 febbraio, di un 21 febbraio a cura di Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 febbraio 1937, ventunesima giornata di campionato. La Roma vince in casa della Lazio anche il derby di ritorno per 1-0 con gol partita del centrocampista Mazzoni. Ma la gara sarà ricordata per una maxi rissa, iniziata in campo negli ultimi minuti e poi propagatasi sugli spalti. A originare le ostilità, un colpo a gioco fermo subito dall'attaccante della Lazio Piola. L'indomani i giornali accusano il terzino giallorosso Luigi Allemandi, protagonista anni prima, quando era in forza alla Juve, del primo grande scandalo del calcio italiano. ma stavolta Le Mandi non ha colpe, come chiarisce il compagno di squadra Eraldo Monzeglio in una sorprendente lettera al Giornale d'Italia. È stata colpa mia, scrive Monzeglio, a Le Mandi non c'entra. C'è un gran fiorire oggi di messaggi di ispirazione palesemente biscardiana. Diego, per esempio, l'ultimo arrivato, scrive: della partita di ieri falsata a Lecce, vedo che non parlate. Falsata nel senso che quelli a Lecce correvano troppo, cioè falsata perché non c'erano i vigili per l'eccesso di velocità, intende Diego, probabilmente sarà questo. Massimo è in linea da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Una cosa veloce sulla partita del Milan di ieri, io sono un tifoso milanista. Una partita bruttissima, con le foto impietose dell'errore dell'arbitro, vabbè, adesso non voglio stare lì. Ciò che mi dispiace è che adesso per 6-7 giorni il signor Mazzarri, che di secondo nome fa non è mai colpa mia, riempirà i giornali, che ha cominciato stamattina, per caricare l'ambiente con tutta la solita letteratura di cui... Però Massimo, mi scusi, magari avrebbe preferito non avere questo argomento e cercarsene un altro, che tanto ha abbastanza fantasia, e essere a un punto solo dal Milan, o no? Ma mi dispiace per questo, guardi, io avrei voluto giocare con il Napoli con Lavezzi, per esempio, perché io ero a Napoli nell'andata, per dire, no? E a dispetto di quello che dice qualcun altro, ma quanto pazienza si è fatto espellere. Io ero in tribuna Posillipo invece, insieme ad amici napoletani. Gli amici napoletani intelligenti, io sono napoletano, lasciamo spedere gli altri, erano imbelviti con pazienza. Beh, lo credo, questo non sì. Non con l'arbitro, perché questo era evidente, questo sì, che l'avrebbe espulso, no? Quindi tutte queste storie, insomma, mi sembrano veramente un po' fuori. Ma siccome Mazzarri non gode, ma lui vive lo stesso della mia simpatia, ma soprattutto perché dal suo modo di fare, già oggi sulla Gazzetta diceva: voglio un arbitro che non subisca le grandi. Eh beh, Massimo, dopo aver visto Banti ieri, io credo che sia una richiesta legittima, onestamente. Pierluigi, ancora da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo intervenire sempre per la Roma, seppure sono un simpatizzante dell'Inter, perché volevo fare solo due considerazioni. La prima è che aver visto una Roma in grado di esprimere ancora un ottimo gioco, seppur per un tempo, forse come solo anche con lo Spartak, ma così anche domenica. E conseguentemente adesso, diciamo, addossare tutte le colpe su Ranieri, in quanto forse era stato visto un anno fa come il salvatore della patria, poi è arrivato sempre secondo, ma non solo con la Roma l'anno scorso sui tre, su tutte i titoli in corsa, ma anche nelle squadre in cui ha allenato in precedenza, dalla Fiorentina al Valencia alla Juventus, cioè arriva sempre con un carico di premesse, forse anche un po' come salvatore della patria, ma poi si perde per strada. Ora, a mio avviso, la Roma è ancora in grado di esprimere un ottimo gioco e l'ha dimostrato ieri, perlomeno in un frangente della partita. Secondo lei com'è successo che poi è crollata, al di là del cuore rosso-blu e del tifo di Marassi, fino a perdere miseramente una partita che sembrava già chiusa? Non lo so, Pierluigi, credo che non ci sia una spiegazione razionale, possono essercene tante, ma insomma non, una cosa così è senza senso. Se è successa 4-5 volte nella storia del calcio italiano, vuol dire evidentemente che siamo in presenza di accadimenti, ma non solo straordinari, di più, cioè proprio davvero epocali. Non lo so, non so spiegarmi. Probabilmente la Roma gioca con un pizzico di sufficienza sempre, anche quando ci mette il 100% della concentrazione, ha un modo di giocare proprio in alcuni dei suoi elementi. Sto pensando a un difensore strepitoso come Mexès, ma con questo vizio, con questo limite forse, no? degli eccessi di souplesse, di quel pizzico di presunzione che ha ogni tanto, e quindi probabilmente, non so, quello può essere stato l'inizio. Aver preso il gol dell'1-3 immediatamente dopo aver segnato il gol del 3-0 certamente ha pesato, ma insomma da lì a squagliarsi a quella maniera, poi evidentemente è colpa di tutti, a cominciare dai cambi di Ranieri, se parliamo di ieri. Paolo Varese, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Buon pomeriggio, signor Garanzini. Voglio innanzitutto ringraziarla per aver riportato in video un grande del calcio italiano come i Bagnoli qualche settimana fa. Innanzitutto questo. Poi volevo fare due considerazioni veloci. La prima su Montella, troppo inesperto. Secondo me questa squadra verrà allenata da Totti e Montella ci metterà soltanto la faccia e anche le brutte figure. Seconda cosa, il cambio in panchina del Bari. Ventura non doveva essere cacciato. Un maestro come Ventura serve a calcio italiano e secondo me, vista l'età, visto che non andrà in un altro club, servirebbe Ventura nella nazionale, come nell'Under 21, per insegnare ai giovani come si gioca a calcio. L'ha dimostrato col Bari come si gioca a calcio. E i Bonucci e Ranocchia sono il futuro del calcio italiano, sono grazie a Ventura che sono nati. Sono giocatori lanciati da lui, è vero. E infatti il Bari lo scorso anno giocava un signor calcio e quest'anno, pur depauperato nei singoli e quindi nei talenti, ha ricominciato alla stessa maniera. Poi tutto è girato troppo storto. A cominciare dagli infortuni perché il Bari potesse reggere il gioco e però certo Ventura per una stagione abbondante ha dimostrato, sia pure in un'età non più giovanissima, che poi è la mia, quindi ecco la solidarietà, di essere ancora bravo. E come, dunque, lo so, Luca scrive: se Banti ieri non sbaglia, il Chievo vince, ma smettetela e guardatevi le partite. Questo è il livello, ripeto, biscardiano di oggi. Da un altro dice, sempre quel Diego di prima, dice: la partita è falsata perché il Lecce doveva giocare in 10 dopo 6 minuti. Io non so dopo 6 minuti cosa è successo. C'è stato un fallo su Toni, ma se quello è rigore e espulsione, allora davvero cambiamo i regolamenti e li facciamo fare davvero a Biscardi, a questi suoi adepti che non so perché sono finiti oggi su queste frequenze, anche se tutti sono sempre benvenuti, intendiamoci. Enrico da Torino, buongiorno. Buongiorno Ferrantini. Dica. Volevo solo far notare in Inter Cagliari che prima del gol dell'Inter c'era un rigore abbastanza evidente, Diego Motta, e di questo vedi che nessuno ne parla oggi. Nessuno ne parla intanto perché è una cosa dell'altra sera. Del gol in fuorigioco, dal posto che è detto fuorigioco, però prima del gol c'era un rigore. Ma ci poteva anche essere un rigore, ma è sempre la solita storia, però. Il tacconso è peso del buso. Cioè, se per caso l'arbitro si era accorto o ha riflettuto andando avanti e ha detto: ma sì, poteva esserci cose, allora corre e ripari subito al settimo minuto. Non ci siamo. Sono due errori che si sommano, perché a un primo errore se ne è sommato un secondo, che poi non è stato commesso dall'arbitro, ma è stato commesso da un guardalinea. Ed è oggettivamente un errore grave, perché non vedere una maglia del colore sbagliato in quel caso così nettamente davanti a quelle delle altre, quasi sulla linea di porta, a velocità normale può anche scappare all'arbitro, non può scappare a un assistente. E non è stata una gran puntata da un punto di vista, come dire, educativo sportivo. Vediamo di far meglio domani, dopo aver ringraziato tutti, in particolare Fabio Cantadori in regia e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio. Yeah.